Torino Tullia Sirena. Torino Tullia Sirena. Torino, Torino, Torino, Torino. Torino, Torino, Torino. Caldo, sta facendo caldo, caldo, caldo. Adesso qui io devo stare a chiappe a molle. Vedi là che già mi si vado, casina. E si pongo tutto a muglio. Fai bene, mi raccomando, è pure un capo se vuoi freschi. E mi senti, ogni tanto facendo un qualche aria fresca là. Ehi, fresca, ui, aria gaccia, un po' gaccia, un po' freddo. Certo, e mai caldi, ancora i cadenti. Non ve ne sono in occhi. Occhi bocchi sono. Tutti bocchi sono. Oggi è giornata di spesa, si chiesto tutti. O a mare, o finire il pene di là. Non c'è più gusto spendere soldi per questa radio. E cosa dipende a fare di là? Vabbè. Ma se ti rilassi in busciacca si guasta nel di là, capito? Sicché bisogna farli girare, bisogna farli girare. Bisogna farli girare, capito? Però bisogna farli girare. Carovina si fa il giruetto. Cazzo di là, cosa posso girare? Io non posso girare proprio nulla. Hai fatto il giro tu allora, o no? Io non vedo l'ora che finisca, sto caldo, anche non volevo subire a seppusciarlo. Te l'ho detto, preferisco più l'inverno 100.000 volte, tanto a mare non vando. L'inverno, allora Marco, sai bene, sei là sì, ti dappi, insomma, a te sì. E la brasa che ti lamenti, busbalo freddo, capri a freddo che fenni, cazzo. La brasa che ti lamenti, anche voi, senza tranquillo. A che non siamo mai contenti, fatti cazzo, vuoi un freddo, vuoi un freddo, vuoi un cazzo. Insomma, non sei mai contento, No, ma io preferisco l'inverno. Ho sempre preferito l'inverno che l'estate. L'ho sempre detto. È sempre meglio l'inverno di rifiuto. Anche io sono così, preferisco l'inverno dell'estate. Quando faccio freddo mi zappo e faccio zappo. Ma quando fa caso non riposi e attacca, attacca dal sudore. Deve stare sempre a voi, ma vanno attaccati. E così, Giovanni, e così, e così, e così, e così. Dai che fra un po' l'estate già finisce, fra un po' è quasi finita l'estate. Mi fate pure a settembre, cazzo, mi fate, Giulia. A settembre come stai a traccare, così che un po' con quasi, un po' freddo, si la mandano un altro. Finché l'ho fatto freddo tissimo, Giulia. La carregata che fate, ti sembra un zocco. Domani è domenica, domani è domenica. Tutta la lì. Giomani non ti anda la lira. No, sono a casa so Giomani cosa la lira. Se lei cosa andrà a fare la lira? Cazzo a pigli a cacchio, ma pigli a cacchio mi so che no. Vero male. Prima fa male, se c'è ancora voglio. E hai fretta. Ancora Giomani, non mi ha giovato un bagno a mare, a vigliri. L'hanno baciato, mi ha giovato due voci se è andato e boh. Pensando, oggi manco, che cane manco una buccia. Ma io via tutta la buccia. Attacca, attacca, attacca. Arriva la sera, la faccio il corso. Vabbè, stasera mi sono fortunato, da lui. Dove è fatto quest'anno? A chi suvi, pare che ad attoccati e rimane pare qui c'è la colla. Troppo caldo, troppo, troppo, troppo, troppo gaccio. E così è così Giomari, troppo gas e fendi, yeah. E' più su di me, un caso che si fa, a vero, in qualche zona anche i 42 gradi, ma hai sentito? In qualche zona il continente anche a 42 gradi. Ehi, ma pure no, che no, che le mani vengono 37-38 gradi. Ehi, sullo risanese, Ivi, cazzo, è un bel caso, è un bel caso a rimane. Sul campidano, Ivi, cazzo, casareto come fate, Ivi. Giomari, prova a passare un attimo sul 23, che avrei come mi ascolti. Sì, è acceso qua, quando accendo questo accendo il 23 io. Aspetta che passo la frequenza, metto, allora, 23.7.255, ok. Chi è? A qui, di ambulanze. Torino.